Fonética libero tron. Fonética libero tron. Fonética libero tron. Quando sono dissidente, quando ti senti più militante, quando semplicemente non capisco quando niente, scambio lire sottosviluppate, con dilatazione di nelle tue ossessioni fragili, nelle tue paranoie docili, nelle tue paure vaghe, nelle tue paure vaghe, nelle tue paure vaghe, nelle tue paure vaghe.